free cocaine over here. I'm gonna take this chainsaw, start it up, tape the throttle all the way open, juggle it while it's running at full speed with two other objects. This is extremely dangerous. Please don't anybody try this. Step back, I'm really shitty at it. We don't know about inhabited planets. E appunto da 400 blows siamo passati a Electron, che abbiamo sentito nella fine della prima parte di 451, con un suono tecnoide ma anche molto vicino all'electronic body music, più conosciuta forse come IBM. E poi abbiamo ancora, per molti versi in sottofondo, anzi per un verso basta, Moody Boys, che è un altro, insomma, specificità di 400 Blues. Electron fu progetto di Andrew Ibir, e Moody Boys invece fu progetto di Tony Thorpe, la parte nera tra l'altro di 400 Blues. E così, per arrivare a una congiunzione, a un ponte musicale tra a quello che per molti era impensabile, cioè che quelle ritmicità decisamente metalliche, se non addirittura aritmicità in molte formazioni e molti esperimenti industrial, portassero poi alla nuova dance, a una cultura di, tra virgolette, insomma, di massa, ma comunque per molti versi l'è anche stata, se pensiamo il rave, anche diventate istituzioni, ad esempio la Love Parade, o a certe appunto forme comunque diffuse di elettronica appunto legata all'ambiente rave, quindi musicalità che all'inizio, se vogliamo trovare un piano insomma generale, basico, fondamentale, partirono come esperimenti sulle musiche elettroniche, diventarono ritmiche appunto attraverso questa sorta di dance metallica creata insomma ad hoc da macchine che rispondevano volutamente male alle ritmicità insomma dance, così anche piuttosto innocue come dicevamo prima. Qua invece diventavano decisamente dialettiche, con quelle immagini distopiche o avanguardistiche, futuristiche della macchina che produce appunto un nuovo senso, esposta insomma di conseguenza la materia sonora in questo caso. E 400 Blues ci aiutano in questo senso a portare le macchine a maggior così, a maggior livello. Infatti, parlando di rave music, rave culture della fine degli anni Ottanta, Moody Boys rappresentano un buon ponte con le danze metalliche di cui stiamo parlando questa sera, i rudimenti, e Eon rappresentano forse quel passaggio ulteriore tra l'acid iniziale, ancora memore di tanta industrial dance, e electronic body music, e poi non sarebbe altro che uno sviluppo di in chiave dance delle musiche considerate industriali, e del suono forse per meglio dire. Eon invece stacca e crea quello che sarà appunto la rave culture insieme a altri protagonisti della fine degli anni Ottanta, se pensiamo ad esempio a Baby Ford, a primissime esperimenti di 808 State, quella generazione che si porterà agli inizi degli anni 90 proprio come fondatrice di quella rave culture, di quel suono anche rave che per tanti versi attraversa l'acid, la techno, quella che fu definita trance, o quella che poi sarà intelligence dance music per tanti aspetti, ma che troviamo tra qualche minuto. Per il momento un pezzo assolutamente storico come Spice di Eon, a rintracciare questi rudimenti attraverso fine anni 80, i primissimi 90 della rave culture. We'll be right back. paradise must flow. Spice must flow. da Aeon Boys siamo passati storica, tra l'altro pezzo della forse trance, se vogliamo chiamarla così, a quel passaggio IDM che forse insomma per tanti versi ha lasciato anche un po' il tempo che trovò all'epoca, ovvero Intelligence Dance Music, un tratto insomma anche un po' troppo snob per definire certa dance volutamente insomma arti per tanti aspetti, ma poi per altri invece è proprio memore di quel rudimento sonoro che questa sera stiamo trattando, di quella matrice sperimentale su le sonorità che provenivano appunto dalla wave più ardita, e Casty Windows sicuramente rappresenta quel viatico incredibile. Sapete, no, chi è Casty Windows? Se non lo sapete andate a cercare, anche perché è un nome insomma piuttosto eclatante nella sua forma, appunto come dice il nome è più caustica, più volutamente cattiva, appunto tanto vicina a quel suono che questa sera stiamo trattando. Anche gli americani ci arrivarono, e come, ritrovando forse una matrice appunto data alla fine degli anni 80 da forme di electro più brutale, vicino appunto alla prima techno. Thank you.

Beh, prima dicevo come gli americani fossero, come dire, arrivati anche loro a fare una forma di techno deviante, ma poi di fatto, insomma, la nascita è proprio in quel paese. Ma ecco, dentro poi quella che fu la cultura rave, sicuramente, insomma, gli Stati Uniti per molti versi c'entrarono, sì, ma insomma, non quanto quella inglese, quella europea, tedesca, altra grande punto di riferimento, la rave culture, ma per molti aspetti anche quella italiana, ma anche Bologna, proprio la città dove trasmettiamo, insomma, ha avuto effetti decisamente interessanti su quel fenomeno, insomma, legato al rave music, ma non solo, insomma, un modo, insomma, di socializzare e forse di ritornare, insomma, a una forma per molti versi vicina a quella che può essere l'utopia degli anni 70, forme chiaramente differenti, ma per tanti aspetti c'erano comunanze, appunto, con quella grande utopia hippie. Non è un caso che uscissero termini negli anni 90 come zippy, che portavano, insomma, l'hippismo dentro, insomma, le elettroniche, dentro la tecnologia. Un ritorno quindi americano a quelle sonorità primordiali legate, appunto, alla traslazione, a una immaginazione sia Fanta Black, legata, insomma, alla techno di Detroit, alla prima house, quindi acid di Chicago, ma anche a una traslazione legata all'IBM, all'industrial più sperimentale in termini di cut-up dance, quindi una forma ritrovata, forse un'attitudine più che altro, quella di Black Dice, anche con un rock completamente freeform, che va a incontrare e scontrare anche per tanti aspetti una dance fuorviante e volutamente, insomma, disturbata e disturbante, da forse episodi, insomma, che ci portano decisamente dentro le maglie noise dell'America. Trattiamo anche quello che è Container, che abbiamo in sottofondo, l'abbiamo sentito con due pezzi da Long Playing 2011, che abbiamo unito, appunto, a Black Dice, un progetto di John Elliott che viene proprio dalle terre americane, dal Tennessee, e curato, tra l'altro, in maniera, e qua facciamo una sorta di grande, insomma, ricapitolazione della faccenda del Rudimenti di questa sera, etichetta la Spectrum di Matt Elliott di Emeralds e di Peter Reberg, ovvero Pita, quindi anche un connubio tra America e Austria decisamente interessante. Pita lo conosciamo come artista post-glitch, legato al noise, legato soprattutto alla sua etichetta Mego, e Matt Elliott lo conosciamo, appunto, con i viaggi cosmici di Emeralds. Dentro lo Spectrum Record troviamo faccende molto interessanti, da questi Container che abbiamo, appunto, ancora in sottofondo, che lavorano su una techno rumorista, come potete sentire e come avete, appunto, sentito nei due brani splendidi di LP, disco, appunto, che riporta quel rudimento, quel fondamento anche brutale, brutalista di certa techno, ma soprattutto a quell'elemento grezzo volutamente diverso che si portava dentro la prima techno, sia quella detroitiana ma anche quella europea, che abbiamo sentito nella prima parte, ad esempio, con tanto di connubio con con l'industria di Electron e l'IBM del centro Europa, tanto per fare un nome, Front 242, e quel recupero dentro container c'è dentro questa splendida progettualità che ci riporta a un suono tecno primordiale, volutamente insomma brutalizzato e suonato con una verve decisamente noise, come d'altronde poi anche all'inizio trasmissione ve lo accennavo a quello che è l'ambito post dubstep, che anche qua prevede faccende decisamente particolari, come possono essere connubi, prima, anzi ancora in sottofondo, container con la loro Spectrum Spools, che etichetta insomma curata da Pita e da John Elliott, quindi un artista americano e un artista austriaco, anche per Sandwell District la faccenda si fa meravigliosamente complicata, un suono dubstep che va a incontrare tanto il noise di ad esempio Silent Servant, quindi a doppio filo con l'America Noise di Prurient, anche qua vedete un po' come ritornano certe cose e come anche si rilaccia poi si rilacciano i nodi in maniera paradossale, anche abbastanza complicata, ma non per questo insomma non capibile, a Black Dice, appunto a un noise che non sfugge alla techno, anzi la va a cercare e fa di questo suono un impatto decisamente interessante e anche probabilmente nuovo nel ritrovare appunto quei germi di rumorismo anche industrialoide, potremmo definirlo tale. Sandwell District tra l'altro viene proprio fuori da quelle sonorità decisamente urbane e quindi in questo caso devono quantomeno farsi capaci di sonorità che partono appunto dalla metal dance che abbiamo trattato nella prima parte, ma che di fatto viene ripresa e portata anche a conseguenze decisamente attuali. Non è un caso che ripeto spesso il decisamente, ma qua si tratta proprio di una scelta anche radicale, se vogliamo, legata a un suono e a come stiamo un po' appunto spiegando questa sera, un rudimento, una base che porta a quella che è un certo modo di intendere la dance a un'astrazione metallica fantascientifica. Sandwell District. E dal suono post dubstep di Sandwell District, con tanto insomma di rimando a quegli anni Ottanta, insomma, che abbiamo attraversato nella prima parte di 451 frammenti sonori, tante riprese da Cabaret Voltaire, Several Hats, 400 Blues, quella sonorità prima che diventasse rave dell'acid techno, e quella comunque voglia sperimentale di rituffarsi dentro quel suono grezzo, e quella possibilità anche data appunto di ritrovare un'attitudine, se vogliamo, virginale rispetto all'utilizzo della macchina, che sì, memore della storia, ma anche di quello che può essere appunto un di nuovo approccio decisamente punk, l'abbiamo chiamato così, o post-punk, forse con Sandwell District è bene parlare di post-punk, ma ancora di più con i personaggi che abbiamo in sottofondo e che abbiamo ascoltato con un pezzo veramente micidiale, Factory Floor, nome insomma che sia qua 451 frammenti sonori, ma anche in altre trasmissioni, tra l'altro quelle più avvedute, così, come dire, prendiamo anche un po' posizione rispetto a certe musiche che passano anche tendenzialmente a livello radiofonico. Comunque Factory Floor stanno insomma di fatto diventando anche una formazione di culto, ma forse anche uscendo fuori dal culto anche di punta di quello che può essere un fenomeno legato a una non rilettura, non ripresa del post-punk, della industrial, anche dance, perché no, ma probabilmente proprio di ricodificazione di un suono, di attitudine cattiva, di attitudine antagonista rispetto a un modo di intendere le musiche, di intendere il suono come comunicazione sociale, comunque, che va a impattare in una certa qual maniera, e in un certo senso insomma anche uscendo da quella debolezza voluta postmoderna e ritrovando quelli che erano i germi insomma di un suono cattivo, di un atteggiamento comunque che non si fermava insomma alla semplice musicalità, al semplice prodotto musicale, ma investiva anche dalla politica, ma nel senso anche più largo del termine, se pensiamo ai riferimenti di Throbbing Gristle, di Factory Floor, la loro stessa partecipazione all'ultimo Chris and Cose, che appunto sono altro che due ex Throbbing Gristle, e appunto quella politica to cure che facevano i Throbbing Gristle, dalle provocazioni culturali a proprio avere attacchi antisistemici in termini di comunicazione, di shock, e tutta anche tutta la teorizzazione della cultura, della controcultura shock dell'industrial, da lì poi creare insomma veramente mille filiazioni, sì, ma assolutamente bastarde, nel senso di creature anche che volutamente si allontanavano o dissimulavano insomma un atteggiamento e una possibilità data da musiche che non si vedevano soltanto ancorate come tali o appunto finalizzate al prodotto, ma diventavano comunicazione globale. E per questo insomma abbiamo iniziato, e forse anche inizieremo una seconda trasmissione di Rudimenti, proprio partendo da quel cut up dance che ha interessato la prima parte di 451, ma ha interessato poi in realtà insomma una sottotraccia degli anni 80. 80 e che adesso insomma diventa traccia anche importante, anche con uscite discografiche notevoli come Container, come Sandwell District, come Factory Fraud. Tra l'altro stiamo anche aspettando con una certa trepidazione anche proprio l'album vero e proprio di Factory Fraud, visto che ci sono un po' di EP anche abbastanza misteriosi, difficile da ricostruire, insomma, uno giapponese che non si capisce bene come rintracciare se non tramite rete, insomma, se poi invece amate il supporto, come dire, tra virgolette classico, e insomma non è proprio facilissimo da recuperare. E così, per finire con lande desolate che riportano tanto alle ritmicità così dettate da queste industrie in dismissione che accennavamo prima, tanto anche a fantascienze decisamente distopiche, Dean Blunt insieme a Inga Copland, Black is Beautiful, disco importante del 2012, con veramente tanta carne al fuoco, che va da un suono, scusate qua, come dire, il mancamento delle due, ma insomma ci vuole anche quello, che va da un suono appunto che riprende tanto da certa dance alternativa metallica, e anche da sonorità che si fanno a ontology, quindi che vanno a ripescare insomma momenti della memoria così persi dentro videogiochi giunti evidentemente al termine, strane perturbazioni legate a memorie di trasmissioni televisive che diventano astrazioni così forse post nucleari, o addirittura appunto rintracciando quelle che erano le forme paranoiche del decennio anni 80 e della guerra nucleare, anche momenti sì legati a proprio a quelle sonorità, magari T-Zit spaventati tanto dalla guerra nucleare, e quanto forme insomma astratte di guerre forse più fantascientifiche, ma forse dominate da quel senso insomma fortemente distopico, quindi forse guerre tra sopravvissuti di pianeti così in forma insomma di abbandono stellare, insomma, senza perdermi in deliri vari che tra l'altro insomma mi porterebbero e ci porterebbero lontani. Vi lascio a Dean Blunt, Inga Copland, tra l'altro già dentro progettualità come Hype Williams, quindi faccende interessanti dentro la ontology, ma anche dentro queste ritmicità che ci portano evidentemente dentro queste danze meccaniche, questi rudimenti basici che abbiamo cercato perlomeno di ritrovare questa sera. Io vi saluto, vi rimando al prossimo 451 Frammenti Sonori in compagnia di Gino Dal Soler e Jerry per altri viaggi legati a questo, in questo caso, anzi in quel caso futuro appunto di domenica prossima, al Folk and Drone. Ciao da Max Macchia, da 451 Frammenti Sonori, e alla prossima, d'accordo? Ciao.